24 mattino. Renzi però non si dà per vinto. Ha rilanciato la campagna elettorale con un'idea geniale, secondo me. I cinepanettoni del PD. Questi giorni nei cinema, vacanze col Jobax, vedi? Regia Matteo Renzi, vedi? Sono protagonisti giovani a spasso. E secondo, vacanze in Banca Etruria. Questa l'ha diretto la Bossi col Subacco. Vacanze in Etruria sono i cinepanettoni, non del PD, diciamo la verità, di quel perfido satirico che risponde a nome Igene Gnocchi. Igene, lo so che ci senti, perché sei l'unico artista sveglio presto di mattina, forse è per questo che sei così pazzo. Allora, la rassegna stampa dei titoli, che però come sempre è introdotta dalla storia di copertina, e oggi è una storia tremenda. È la storia che rubiamo dalla penna del Corriere della Sera. Felice Cavallaro ci racconta del barelliere assassino. Ora, questa è una figura che è tornata spesso nella storia. Mettiamo le nostre vite in mano a qualcuno e quel qualcuno tradisce la nostra fiducia e ce le ruba. E è incredibile questa vicenda, perché uccideva i malati terminali, e fin qui c'è di mezzo il crimine, la follia, la mente del serial killer. Ma a Catania questo barigliere lo faceva per una motivazione che è la più folle che possiate immaginare. Cioè, uccideva nella sua ambulanza con un'iniezione letale, facendo passare ovviamente la cosa per un incidente fortuito, e lo faceva per poi piazzare il funerale con la ditta vicino alla gang mafiosa ai parenti della vittima. Davide Garofalo, 42 anni, casa e famiglia ad Adriano, fino alla scorsa estate in servizio davanti all'ospedale di Biancavilla su un'ambulanza privata, trasformata, scrive Cavallaro, in carro funebre anche per conto della mafia. Mani esperte e rodate, una siringa usata per iniettare aria nella cannula dei pazienti, morivano tutti per embolia all'interno dell'ambulanza. La gente non moriva per mano di Dio. Questa è l'intercettazione che ha portato gli inquirenti sulla pista di questo barelliere, ed è una piccola, grande storia di vergogna, ma anche una rappresentazione del punto basso a cui può arrivare l'abiezione umana. Allora cominciamo così, le pagine, i titoli, Corriere della Sera, Spagna. Vincono i separatisti, sconfitta a Madrid, grida Puigdemont, governatore esule come sapete, però il primo partito è Ciudadanos, così ci racconta Aldo Cazzullo, l'apertura del Corriere della Sera, e Alesina e Giavazzi tornano, i due editorialisti economici principi del Corriere della Sera, così Trump ci sfida sulle tasse. Titolo centrale, Renzi difende la Boschi, giudicheranno gli elettori. Poi vi leggo, è carino, Gramellini oggi non leggo Feltri. Libero, la riscossa dei nonni. Torna al comando la gerontocrazia, i vecchi non hanno eredi degni, Benetton 82 anni si riprende l'azienda, idem del vecchio, stessa età, Berlusconi 81 anni, ancora protagonista in politica, De Benedetti fa pezzi al figlio, i giovani sono in crisi, vedi Renzi e Boschi per tacere di altri. È un editoriale, più che una notizia, però intrigante, di Vittorio Feltri, che firma l'apertura, che gira a pagina 3. Poi c'è un fondo interessante, un corsivo di Filippo Facci. Poletti ha un debole per le ragazze brutte, non sopporta la bella presenza. E ricordate la notizia che lessi ieri, ma Poletti mi sembra abbia fatto una cosa più che giusta, cioè togliere da quel bando che chiedeva la bella presenza. Il Messaggero, la Catalogna resta indipendentista, è il titolo di apertura. E il fondo di Carlo Nordio, la Costituzione 70 anni dopo, che cosa chiediamo oggi? Renzi blinda la Boschi e decidono gli elettori, ma i big del PD frenano. Il Foglio, Salvatore Merlo dedica l'apertura al Movimento 5 Stelle, 5 anni di bilanci, i ragazzi di Grillo dovevano cambiare il mondo, ma è stato il mondo a cambiare loro. Un pezzo sapido, puntuto e ovviamente critico con i grillini. L'apertura di Cerasa, ribellarsi all'odore stantio di cialtroneria, c'è un'Italia che vive di linciaggi e allarmismi, che si preoccupa di dare solo scalpi ai propri follower, poi c'è un'Italia meno nota che prova a raccontare il paese per quello che è. Mustier, Unicredit ci spiega dove può portare il modello Draghi. La Stampa. Barcellona, nuovo strappo con Madrid. Editoriale di Stefano Stefanini. Rajoy paga l'assenza di strategia. La crociata del Papa contro i complotti. Francesco sferza la curia, basta traditori. Lo scontro durissimo, ormai spietato, con i conservatori. C'è una foto di una bella papalina porporata e sullo sfondo il Papa sfocato. I più migliorissimi, dicevo, ecco il fondino esilarante che leggerò subito di Mattia Feltri. Il Sole fa i conti finalmente sulla manovra. Una manovra da 1247 commi, pensate. Gli ultimi assalti alla dirigenza si sono spenti ieri. Regole e credito, il fondo di Alberto Rioli, la politica e le tre partite vere sulle banche. E poi l'intervista di Carmine Fotina a Carlo Calenda sull'Ilva: l'investimento non si modifica, basta ai partiti del no. Di taglio, Verona cresce con l'Europa, ma io oggi vi leggerò anche nella mitragliata le classifiche delle macchine rubate, grande indicatore per capire un paese come l'Italia. Anche il Giornale contro Gramellini. Follia corretta, la brutta presenza di Poletti e Gramellini, quindi qualcosa dovrò leggere. Ma l'apertura ancora più interessante: i pensioni, ecco gli aumenti, meno assegni ma più ricchi, fino a 260 euro l'anno. Sì, però non vi montate la testa, solo per chi ha 3.000 euro di pensione mediamente sono 8 euro. Repubblica, in Catalogna un voto anti-Madrid, ma brilla Ciudadanos, che come sapete è la formazione unionista. Governo, il giorno delle nomine, vicini all'incarico, Nava la Consob, Nistri al vertice dell'arma, Farina a capo dell'esercito, cito Renzi sulla Boschi decidono gli elettori, Mallotti, questo è il retroscena particolare, così non reggiamo, calano le tessere del PD. Il conflitto di Grasso, il fondo di Nadia Urbinati e il Fatto. La Boschi, Gran Turismo, tutte le finte missioni istituzionali del sottosegretario e il fondo di Travaglio, AAA Di Maio cercasi, quindi fondo critico nei confronti del candidato dei 5 Stelle. Il taglio lo leggerò, cioè anzi il piede della pagina: Amazon licenzia Elena Ferrante. In realtà si tratta delle edizioni E.O. scaricate dal Colosso, ma è un tema molto interessante anche per i cani e per i gatti. Hai capito, Oscar, che ci stai sentendo? Cioè aveva rifiutato lo sconto massimo chiesto dalla grande catena ed è stata tagliata dal catalogo un'intera casa editrice, fra cui ovviamente c'è un autore come Elena Ferrante. Il Manifesto, impietrito, con 128 favorevoli e 9 contrari, l'ONU sfida Trump. C'è una foto di Intifada. Avvenire, Gerusalemme capitale, l'ONU boccia Trump e guardate la trasparenza del giornale dei vescovi, una curia aperta oltre i complotti e le chiacchiere. C'è la foto del Papa, il Papa critica, attenzione al termine, i traditori e il precariato. E il Corriere dello Sport, tutti con Zeco. E poi la notizia, lo pagano 170 milioni, il Paris Saint-Germain è pronto a una clamorosa offerta per Milinkovic. 170 milioni di euro, ragazzi! Insigne perla d'Italia, l'azzurro vincitore del premio Gazzetta, si racconta la verità. Consulenze irregolari con il CD Boschi, il titolo di apertura addirittura 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonne, il ritrattone di Perna nella pagina centrale è dedicato alla Mussolini, ma vi dicevo la notizia di apertura di Amadori con l'editoriale Belpietro, l'indagine per la Banca Etruria punta su 400.000 euro di pagamenti che sarebbero stati approvati fuori dalle norme come d'accordi con il vicepresidente, cioè con il padre di Maria Elena Boschi, in cambio all'istituto sono arrivate semplici slide. Vabbè, è una campagna molto incessante. Il Tempo, poveri cristi, oltre ai regali di Natale e al buonismo del siamo tutti uguali, a Natale ricordate i milioni di cristiani perseguitati, dossier del Tempo sui morti, stupri e chiese messe a ferro e fuoco, la strada silenziosa e il fondo di Mantovano, e poi c'è un taglio centrale, il detective Raggi scopre il complotto di Spelacchio, indagine su chi ha manomesso l'albero, Virginia, chiederemo i danni. E va bene, questo è il, come vedete, il menù che è bello, succoso e corposo, ci sono tante storie e tanti dettagli interessanti, ma lo sentiamo subito dopo il meteo nella parte dell'approfondimento. Curiamolo, leviamogli il metadone. Mattino. Eccoci, 7:34 minuti, 24 mattino, Luca Telese, scaldiamoci con un grande Mattia Feltri. Buongiorno, la sua rubrica sulla stampa. Secondo voi al ministro dell'istruzione può scappare un più migliori? Certo che sì, se il ministro è Valeria Fedeli, donna così ben educata, così simpatica, ma un po' debuluccia sui fondamentali della lingua. Da Tracce anziché Tracce a Vittorio Emanuele III che incontra Napoleone, anche se hanno 100 anni esatti di differenza, ai sarebbe opportuno che non si fermasse ma prosegua di pochi giorni fa, è stato un 2017 complicato per tutti, anche per lei. E poi viviamo tempi in cui la forma è roba da professorini scemi, contro la sostanza conta farsi capire. Breve elenco, scrive sulla stampa in prima pagina Mattia Feltri, di cose scorrette ma decisamente sostanziose dette o scritte negli ultimi anni dai nostri rappresentanti. Sentite. Se voglio dirle qualcosa la telefono, mi facci finire, la smonto di tutto l'anfiteatro costerà, sarò breve e circonciso, questo sembra Totò ma è vero, è stato detto vero. L'onorevole Ciancio da questo pulpito è stato quasi dilapidato, vadano avanti, concorrino al clima di pacificazione, sembra Villaggio ma è vero. Chiesimo, passato remoto di chiedere, il migrante è un gerundio, i kazakistani, se c'è rischio che massime istituzioni dello Stato venissero spiate, vorrei che ne parliamo, meno marne la personalità, che tutto cambi perché nulla cambia, effetti psicotroci, se ci trovassimo, a me hanno imparato, scrive tutto, è un elenco fatto da Mattia Feltri, lei non mi interrompi, le banche scrivino, il totale soddisfamento, i cittadini hanno uscito il portafoglio, io non ho nulla di cui scusarsi, senza né sentire né apostrofo né verificare, le chiedo se potrebbe controllare, la donna viene sparata di rimuto, favoriggerato, e vai che siamo i più migliorissimi. E questa è l'antologia che ci offre Mattia Feltri sulla stampa, i più migliorissimi, un pezzo diciamo cult. Allora, notizie interessanti, la Catalogna, l'avete visto? Aldo Cazzullo ci spiega, vincono i separatisti e in Catalogna sono maggioranza ma per pochissimi voti. Il personaggio che porta la sua formazione a essere il primo partito è lei, Inés, lo dicevamo da settimane ai cani e ai gatti, compulsando il giornale internazionale. Inés Arrimadas, 36 anni, candidata ai Ciudadanos, unica donna unionista in corsa per la presidenza a Barcellona, il leader del primo partito, i nazionalisti vogliono escludere tutti gli altri. E poi aggiunge Albert Rivera in questa intervista a Nicastro, fermare i secessionisti non sarà un lavoro facile. E lo scrittore Villa Matas, sempre sul Corriere della Sera, sempre nella stessa pagina di Nicastro, la 5, l'Europa non accetterà mai il distacco, i nostri leader del passato erano pragmatici e più realisti, e questo è quello che è accaduto in Catalogna. E entriamo poi nello spazio della cronaca con una notizia tremenda, sempre al Corriere della Sera. Il ragazzo accoltellato a Napoli, perforato un polmone, picchiato da due ragazzi della sua stessa età, anzi sedicenni, per strada. Ebbene, non li conosceva neanche, non li avevo mai visti, ha raccontato la madre sconvolta. Volevano fare colpo sui boss, chissà, parli. È bellissima questa testimonianza drammatica di Maria Luisa Iavarone, mamma del 17enne aggredito a Napoli. Guarda che delitto iniziatico, per me, che ho scritto anche recentemente sugli anni di piombo, è un rituale. Si uccide per dimostrare di poter uccidere. Accadeva durante gli anni 70, accade anche ora nelle terre di Camorra. Allora, passiamo alla vicenda dei vitalizi. Questo è interessante, sul Fatto a pagina 6, lo strappo di Richetti, che era il papà di questa legge e che ora dice: mi vergogno per il PD. Sì, perché quella legge a cui lui teneva, come sapete, non è stata approvata in forma definitiva per le spaccature, e quindi colpisce questa frase molto dura del papà di quella legge: mi vergogno per il PD, vitalizi, che ti si sfoga. Marco Franchi a pagina 6 del Fatto. E entriamo su caso Carrai. Ci sono tante cose dopo il nome uscito nella famosa audizione di Ghizzoni. Lui parla al Corriere della Sera con un'intervista esclusiva e dice: ho sollecitato Ghizzoni, sì, è vero, ma domandare è lecito e io lo facevo per conto mio, Matteo non ne sapeva nulla. Ha mai discusso di Boschi, di Etruria con Boschi? Ci prendo gusto anche io a fare il filologo. Se discusso ha lo stesso significato di dialogare su qualcosa, le rispondo no. Se ha significato di litigio, le rispondo no. E aggiungo: perché mai avrei dovuto? Con Matteo Renzi ha mai parlato di Etruria? No. Questa è l'autodifesa nell'intervista, molto lunga, ma diciamo il cuore, tutto qui, di Claudio Bozza sul Corriere a pagina 9. Su Repubblica c'è il retroscena sulla storia della banca che è stata invocata, diciamo, come motivazione per questa telefonata, la banca che seguiva Carrai. Ebbene, questa banca viene raccontata così: Carrai è la banca della Firenze Bene, strapagata 110 milioni di euro da Etruria. Maurizio Bologni da Firenze, su Repubblica pagina 8, per chi vuole ricostruire questa storia perché la interessa. E Giornale pagina 4 ci dice: importante che Casini respinge l'audizione, la richiesta di audire Carrai sulla sua esperienza, e lo definisce un boomerang, ma questa è l'opinione. La notizia è che non passerà per la commissione. Lotti su Repubblica, in retroscena che è richiamato in prima: così non reggiamo. Lotti e la cena di corrente, in calo il tesseramento del PD, e il pezzo di Tommaso Ciriaco. È clamoroso il dato, perché sarebbe poco superiore alle 90.000 tessere il tesseramento di coloro che si sono iscritti quest'anno al PD. L'anno scorso erano 400.000, vuol dire che 310.000 sono a casa. L'attacco del pezzo di Ciriaco, che è molto bello perché quel racconto che ti dà il sapore di essere lì dietro le quinte, di notte l'assedio sembra ancora più soffocante, mercoledì sera largo del Nazareno. Qua non si tratta di banche o di boschi, si sfoga Matteo Renzi con la Guardia Repubblicana riunita nella sede del PD. L'obiettivo, parliamoci chiaro, sono io. Ma di che discutiamo? Lo ascoltano il vice segretario Maurizio Martina, lo ascolta Ettore Resato, Lorenzo Guerini, Matteo Orfini. C'è da impostare una campagna elettorale tutta in salita, e da ribaltare ci sono, racconta Tommaso Ciriaco su Repubblica, sondaggi drammatici come quello di Alessandra Ghisleri, che inchioda i Dem al 23.7% e racconta che il centrodestra sta volando oltre il quota 40%. Che possiamo fare? Ragiona con i suoi leader. Come se ne esce? È lo stesso irrisolto dilemma che angosciava martedì scorso Luca Lotti e una decina di fedelissimi parlamentari della sua corrente durante una cena al ristorante La Maddalena. A due passi dal Senato, solo una vetrata protegge la comitiva. Qualcosa bisogna fare, ammette sconsolato il ministro, secondo secondo racconto di Ciriaco, perché è evidente che così non possiamo andare avanti. Risolvere il caso della sottosegretaria è un obbligo, sebbene neanche lui abbia la ricetta giusta. Ci stanno massacrando e l'ossessione del ministro dello sport, che confida ai suoi commensali, uno che quella commissione d'inchiesta, è vero, non la voleva. Questo è lo scenario per entrare dentro l'animus del Partito Democratico. Vi ho detto del sondaggio di Piepoli, il pezzo firmato da Piepoli sulla Stampa, 6 su 10 nel PD sono con la Boschi, comunque la maggioranza di tutti gli elettori, ma ci sono anche quelli del centrodestra e sono al 60%, dicono che dovrebbe ritirarsi secondo questo sondaggio. La Lega, pagina 13, ma anche il giornale, ma anche gli altri, presenta il suo nuovo simbolo, attenzione, perché è il partito più antico della politica italiana, modifica il suo simbolo in un dettaglio apparentemente, ma come sapete è vitale. Sul Corriere c'è la foto di Salvini con in mano il simbolone Lega grande e Alberto da Giussano. Salvini, cosa manca? La parola Nord. Manca il Nord, ma c'è Salvini. La Lega lancia il nuovo simbolo, il leader, giusto indicare il candidato premier. Assenti Bossi e Maroni, secondo il Corriere è la prova di un dissenso. E vi racconto questa anteprima del film di Ambrogio Crespi sul prefetto Mori, nel momento in cui si parla di inchieste, di trattativa Stato mafia. Ebbene, l'uomo che fu accusato di tante cose parte al contrattacco e dice una frase durissima. Una frase molto dura: devo veder morire il tempo, pagina 13, i miei persecutori. È veramente un memento mori, come ha detto la nostra Rachele, che con le battute macabre ha molta confidenza. Il generale Mori, alla prima del docufilm sulla sua vicenda, quando fu indagato, rassicurai la mia famiglia: tranquilli, sono dalla parte del giusto. Quanti vorrebbero poter dire questa frase? Fermiamoci un attimo per le strade e torniamo con la lente di ingrandimento. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Ventiquattro mattino. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. L'avidità, la legge dell'avidità come motore dell'evoluzione. E queste sono le parole del nostro amico Gordon Gekko, ovviamente. E entriamo nella sezione economica con tante notizie importanti. Allora, vi dicevo che il quadro della manovra finalmente compiuto è il cuore del Sole 24 Ore di oggi. Quanto sono belli questi paginoni, io proprio vado in orgasmo perché c'è una bella illustrazione, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 schemi che raccontano punto per punto quello che succede. Allora, cuneo previdenziale, metà contributi per 3 anni sui assunti under 35, industria 4.0, incentivi fino al 2019, al via alla formazione, web tax sulle transazioni digitali, prelievo al 3% dal 2019, servizi finanziari, per i prestiti arriva la ritenuta del 26%, fatturazione elettronica, non c'è l'obbligo della PEC per i consumatori finali. E vi ho letto solo alcuni dei titoli, i soliti raggi X di immobili e rogari, la premiata ditta che a quattro mani fa una disamina di quello che è sul tavolo. Il fondo però di Orioli oggi sul Sole è sulla commissione banche e fa un'analisi molto dura, chiara, netta, la politica e le tre partite vere sul sistema bancario. Vi leggo l'incipit: se la commissione d'inchiesta sulle banche non vorrà passare alla storia solo come ring per un wrestling politico-finanziario a uso di vendette e controvendette tutte elettorali, dovrà tenere conto di almeno 3 scenari emersi finora ma sepolti dal rumore di fondo del MES. Primo, racconta Orioli, il quadro economico. Il governatore di Banca Italia Visco ha affidato all'attenzione dei commissari 2 cifre enunciate con lo stile asciutto della casa. Il nostro PIL oggi è ancora inferiore, pensati, dei 6 punti rispetto a quello pre-crisi del 2008. Quello dell'Eurozona invece sopra di 7 punti. Ciò significa che l'Italia deve recuperare almeno 13 punti di competitività. Un'enormità, scrive Orioli, e già questo vi dovrebbe predisporre a leggervi questo interessantissimo punto di analisi che gira a pagina 12 e fa la fotografia. 13 punti di competitività persa. Ma di spalla c'è l'intervista a Calenda, la battaglia del ministro che non si ricandida ma non molla il punto finché è in carica sull'Ilva. Ilva basta, partiti del no, l'investimento non cambia. Calenda è stallo, lo Stato non pagherà. Su Alitalia a gennaio negoziato in esclusiva, firmato il decreto sugli energivori. Tre lanci di quello che dice a Carmine Fotina Calenda. In manovra su ambulanti e notai, una debacle per la concorrenza. Dopo le festività, finalmente il bando su Competence Center, ma non sono soddisfatto. Sullo sviluppo, no a scorciatoie. Spero che i cittadini lo ricordino ai partiti in vista del voto. E questo è il prospetto di quello dei temi, ma è un'intera pagina, se volete andate quindi a pagina 5 del Sole, e vi leggo dal giornale che dà grandissimo rilievo ovviamente a questo, cosa succede sulle pensioni. Il pezzo è l'apertura di pagina 3, lo firma Francesca Angeli. Ecco gli aumenti: fino a 260 euro in più all'anno, sbloccata la perequazione automatica ferma da 2 anni per gli assegni sotto i 3.012 euro, incremento dell'1.1%. Sono cifre che magari fanno un po' girare la testa, però quello che è interessante in questo articolo è che abbiamo meno pensionati. L'esercito dei pensionati segna un meno 115.000. I nuovi pensionati registrati nel corso dell'anno 2016 sono meno rispetto ai cessati, 575.000 contro 689. Quindi, voglio dire, un saldo importante per i conti. E la notizia però che mi interessava era: altro che fisco amico, questo farà impazzire cani e gatti Oscar. Il tarocco delle entrate per vincere un processo a Bari. Udite, udite! L'agenzia delle entrate falsifica un documento per non concedere a un'impresa un credito di 200.000 euro. Hanno trovato una firma falsa apposta da un funzionario che non era lì quel giorno. Ma io non lo so, credo che sia una cosa senza precedenti e mi fermo qui. Amazon, dal Fatto, pagina 9, taglia E.O. Gli aveva chiesto alla casa editrice E.O. uno sconto, che è quella che pubblica la Ferrante, Carlotto, uno sconto drastico sulla fornitura, quelli si sono rifiutati, via dal catalogo, ale! Il borsino, importante, sapete che Luca Sappino ci tiene molto, sono stabili i frumenti. Voi che siete sulle strade, voi che siete preoccupati oggi per la vita, sappiate che è stabile la quotazione del frumento, il grano duro soprattutto, ma è in ribasso la soia, meno 4 euro, e i frumenti OGM meno 7 euro il chilo. Questo è molto importante, andiamo sulla mitragliata. Il pezzo che merita la cornice nella mitragliata che racconta il costume italiano, Tiziana La Pelosa, sul Libero, pagina 16. Ascolta Valerio, condannato al mantenimento. Tu mi dirai del figlio? No! Del cane. 50 euro al mese dovranno essere per sentenza corrisposti all'ex moglie per mantenere il cane. È giusto, diranno gli animalisti. Paga, paga, paga e taci. Allora, la parola definitiva della Raggi su Spelacchio: è successo qualcosa fra il taglio e il trasporto. Il Tempo, pagina 7, ce ne eravamo accorti, ve l'avevamo raccontato. In fondo è vittima di questo, ho indagato. Clamoroso e bellissima la classifica dei furti d'auto. Attenzione, Roma ruba il primato a Napoli. Erano 6.903 i furti di macchina segnalati e denunciati nella capitale della Campania, nel capoluogo della Campania. Sono 8.640 quelli a Roma, ci riprendiamo il primato, ma vi incuriosirà tutta la classifica. Per esempio a Bari si rubano 3.222, meno macchine che a Milano, 3.928. A Torino si rubano più macchine, 2307, che a Palermo 2073. Natale. Sapete qual è la regione dove si può lasciare, un tempo si diceva, la porta di casa aperta, la porta della macchina aperta? Il Veneto e la Toscana, 1.63% di furti, 1.49% contro il 20% di queste città dove c'è questa media così pericolosa. Ritorna, scompare lo spadino, figura romantica, lo spadino del ladro che trafficava sulla porta. Secondo un bellissimo approfondimento del Tempo, adesso bisogna stare attenti quando si esce dal supermercato, se vedete qualcuno col telecomandino è perché sta intercettando il vostro segnale, vi vuole fottere la macchina. State attenti, notizia molto seria, Brignano, Il Fatto, pagina 18, il mostro non sono io, era accaduta una follia in rete, processato Brignano dopo le accuse della Mazza Mauro che aveva raccontato di aver ricevuto uno schiaffo, la rete aveva deciso che il mostro era Brignano e lo avevano linciato e lui dice no, non si parla di me. Intervista bellissima, esistono ancora i saggi in Italia a Girlo Dorfles, 107 anni, il grande intellettuale, sono 50 anni che mi occupo di cattivo gusto, ho sempre più lavoro e il Galateo che è scomparso. Ci fermiamo per il giornale radio, Ale!